con l'attore Paolo Mazzarelli, che è uno dei curatori di una saga shakespeariana dal titolo Who is the King, che sarà a Roma al Teatro Vascello dal 18 al 27 gennaio 2019. Paolo, ben trovato. Grazie, grazie, eccoci qui. Ci racconti questo progetto? Sì, questo progetto nasce dopo una decina d'anni di lavoro che io e Lino Musello svolgiamo insieme provando a scrivere testi originali, quindi drammaturgia contemporanea. Dopo una decina d'anni di scrittura originale ci siamo un po' guardati intorno chiedendoci se avevamo voglia di continuare a scrivere partendo da zero, se avevamo voglia di fare testi di altri autori, e abbiamo trovato una sorta di compromesso nel momento in cui ci siamo innamorati di una materia impressionante per la sua vastità, ma attraente in maniera imprescindibile per la sua profondità. E queste materie sono questi 8 drammi storici di Shakespeare, i quali messi in ordine costituiscono un primo esperimento teatrale di scrittura seriale. Sono 8 drammi storici che raccontano circa un secolo di storia inglese, appunto attraverso un andamento seriale. Quelli che presentiamo a Roma, al Vascello, sono i primi 2 episodi degli 8 che in teoria compongono il quadro completo, e sono sostanzialmente gli eventi coperti dal Riccardo II e dall'Enrico IV, parte prima, che sono appunto i primi 2 testi di questa grande saga. Questa è, diciamo, la questione della materia di base. Poi dopo ci sono tutti i contenuti. Sì. Come avete pensato di strutturare questa saga di 8 opere? Che tipo di lavoro è stato? Nel senso che ognuno di questi testi presi singolarmente durano tra le 4 e le 5 ore se li si fa in maniera integrale. Noi ci siamo posti l'obiettivo di fare 4 grandi spettacoli di circa 3 ore ciascuno, e quindi di condensare ciascuna opera di Shakespeare a una durata di circa un'ora, un'ora e un quarto. Quindi lo spettacolo dura 2 ore e mezza più intervallo, ed è un primo tempo composto fondamentalmente da Riccardo II, un secondo tempo composto dall'Enrico IV. Naturalmente, detta così, sembra, come dire, una saga che ha un intento puramente storico, nel senso che i testi sono drammi storici, ma essendo Shakespeare il genio che è, Shakespeare poi parla sempre della stessa cosa, e la cosa di cui parla è l'uomo, e l'uomo è qualcosa che rimane sostanzialmente eterno nell'arco dei secoli, quindi parla di noi, parla dell'uomo, di come l'uomo si avvicina a se stesso o si allontana da se stesso, in particolare nel rapporto con il potere, che è il grande argomento di questi drammi, perché si parla di re, quindi di tradimenti, di congiure, di vanità, di ambizione, di desiderio di conquistare un potere, di quello che succede quando poi il potere lo si è conquistato. E quello che Shakespeare ci dice è fondamentalmente che il potere è il grande nemico dell'uomo, è la cosa che allontana l'uomo dalle sue migliori qualità e lo avvicina ai suoi peggiori istinti, come se ci fosse una maledizione connaturata al potere stesso che rende l'uomo peggio di quello che l'uomo sarebbe di per sé. Paolo, mettere insieme queste 8 opere in una riscrittura, che impressione ti hanno dato rispetto alla scrittura originale di Shakespeare in fila una dietro l'altra? Ma chiaramente noi per adesso abbiamo approcciato solo i primi 2 testi, quindi, come dire, è una grande impresa, ma è soltanto l'inizio di un'impresa che nella sua completezza è smisurata. È stato molto, molto stimolante, molto eccitante confrontarsi con tutti, chiaramente cercando di rimanergli fedele e nello stesso tempo essendo obbligati in qualche modo a tradirlo continuamente, perché anche solo la misura della sintesi che noi abbiamo operato rende necessario un grande tradimento. Però la forza della materia shakespeariana è talmente forte, arriva agli attori e poi al pubblico in maniera talmente diretta, che la strada giusta è sempre quella di fidarsi di lui, cercare di chiedersi veramente che cosa ha scritto e trovare il modo per riraccontarlo nella maniera più fedele possibile, pur tradendolo. Ecco, in questo senso, per il lavoro di riscrittura, come vi siete mossi? Inizialmente abbiamo cercato anche altre possibilità, quindi una riscrittura pura, come dire, una riambientazione contemporanea. Abbiamo ipotizzato di entrare in maniera insomma più forte, e invece no, invece poi abbiamo capito che il modo migliore per affrontare questa materia era quella di cercare di rimanere fedeli quanto più possibile. Naturalmente fedeli non ci siamo rimasti, perché è impossibile, però questo è stato. E inoltre noi scriviamo da sempre per una compagnia. gli attori, in questo caso sapevamo già qual era la compagnia per la quale scrivevamo, quindi per esempio i due ruoli principali di questi, dei primi episodi sono un padre e un figlio, e noi abbiamo scritto sapendo che il padre e il figlio sarebbero stati interpretati da Massimo e Marco Boschi, che sono un padre e un figlio, quindi come dire, il pensiero degli attori per i quali scrivevamo si mescolava alla cognizione dei personaggi che aveva scritto Shakespeare. Ecco, in scena 10 tra attori e attrici, com'è stato il lavoro collettivo? È stato collettivo, come dici tu, perché la bellezza di questa materia è che ogni personaggio attinge a note di grande profondità, di grande ampiezza, di grande potenza. Tutti gli attori sono protagonisti, chiaro ci sono dei ruoli principali, dei ruoli cardine, però ogni attore ha spazio, ogni personaggio ha spazio per toccare le note più profonde dell'essere umano. E poi, come nella materia originale, come dire, si contrappone un mondo serio, più storico, che è il mondo della corte, quindi un teatro in qualche modo più classico, più vicino a quello che può essere un mondo di corte e un teatro di corte, perché la corte è a sua volta un teatro. A questo mondo Shakespeare contrappone il mondo di Falstaff, quindi il mondo che lui ambienta nelle locande, nelle bettole, dove Falstaff e i suoi amici si ribellano invece alla, come dire, alle ideologie di corte e affermano la necessità di una vita vissuta all'insegna dell'irresponsabilità e del divertimento. Noi abbiamo chiamato questi due mondi stage e backstage, quindi tutto il mondo di Falstaff e dei suoi amici lo abbiamo ambientato in una sorta di backstage, quindi di retropalco, in cui i tecnici e gli attori in qualche modo vivono e commentano il teatro, che sarebbe poi il mondo di corte. Nel titolo Who is the King avete tenuto conto anche di questo concetto del potere che mi dicevi prima, immagino. Sì, Who is the King, diciamo, è semplicemente un titolo che allude al fatto che si tratta fondamentalmente di una sequenza di re che ci succedono l'un l'altro. Who is the King? Chi è il re? Alla fine il re è sempre appunto l'uomo, il re è il teatro, però il titolo si riferisce a una sequenza di re che si succedono, si combattono l'uno con l'altro. Dopo questa tappa romana, che succederà? Succederà che ci fermiamo. Lo spettacolo è nato l'estate scorsa, ha debuttato a Napoli Teatro Festival, ha fatto varie anteprime estive, 2 settimane al Teatro Franco Parenti di Milano, che lo coproduce con Pirandelliana e Marche Teatro. È stato ripreso poi quest'anno adesso ad Ancona e a Massa, e adesso abbiamo le 2 settimane di Roma, e per adesso ci fermiamo in attesa di capire quando riprenderlo per proseguire con il terzo e il quarto episodio, quindi arrivare fino all'Enrico V. Bene. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Non ne ho molti perché noi non abbiamo un sito web, ma sul sito del Teatro Vascello ci sono tutte le informazioni, che è il teatro in cui siamo, e credo che questo sia il riferimento più sicuro per gli ascoltatori, perché su quel sito c'è tutto quello che serve per trovare i biglietti. E allora ricordiamo la serie Who is the King da William Shakespeare, un progetto di Lino Musella, Andrea Baracco e Paolo Mazzarelli, che sarà a Roma al Teatro Vascello dal 18 al 27 gennaio 2019. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Mazzarelli. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, crepi il lupo, viva il lupo e a presto. Ciao Paolo. Ciao.